20 gennaio, seconda parte. Allora, abbiamo detto la società dello spettacolo, 1967. Nel 1967, quando De Boer scrive la società dello spettacolo, la gran parte dei membri fondatori dell'internazionale situazionista, in particolare Asger Niorn, Constant e Cinogalitz, non ci sono già più, perché sono stati, alcuni se ne sono andati per conto loro, come Pino Gallizio e Constant, altri sono stati addirittura espulsi dall'internazionale stazionista, da De Boer stesso, il quale ha effettivamente, come dire, ha dei modi di fare, delle pratiche all'interno di questo suo gruppo, insomma, che ovviamente di cui è stato uno dei fondatori, eccetera, ma ha delle pratiche che potremmo chiaramente definire staliniste, ma che non erano però tanto tanto diverse da quelle del suo più importante predecessore, il fondatore dell'ultimo grande gruppo delle avanguardie storiche, che cioè il surrealismo. André Breton faceva esattamente la stessa cosa con tutti quelli che non erano. La gran parte della cultura francese degli anni 30 passò per le file con i surrealisti, ma la gran parte ci stette molto poco. Facciamo due nomi soli per tutti: Georges Bataille e Antonin Artaud. Furono entrambi surrealisti tra la fine degli anni, Artaud tra la fine degli anni 20 e Bataille qualche anno dopo, ma furono poi rapidamente fatti fuori da Breton stesso. Questo tanto per dire che spesso, ma diciamo che non è detto che la militanza rivoluzionaria il considerarsi degli intellettuali d'avanguardia non garantisce dal fatto che si possa essere anche un bel po' stronzo, insomma. De Boer dal punto di vista comunque. Però, quindi da un certo punto in poi, dall'inizio degli anni 60, già dal 61-62, l'internazionale situazionista è nelle mani, insomma, De Boer è il leader riconosciuto. L'unico altro nome che emerge insieme a quello di De Boer, che non era un situazionista della prima ora, è quello di un olandese, Raoul van Eygen, che è l'unica altra persona che scrive dei libri interessanti. Il più interessante forse è Trattato del saper vivere ad uso delle giovani generazioni, e che oggi in Europa, ma in particolare in Italia, è oggetto di un tentativo piuttosto ambiguo e anche un po' pericoloso, secondo me, di repescaggio da parte dei gruppi di estrema destra. Gruppi tipo Forza Nuova, eccetera, hanno ripubblicato alcune case editrici della destra, razzista, la più estrema, che ci sia, hanno pubblicato opere di questo van Eygen, tentando maldestramente di annetterselo. Allora, quindi, abbiamo letto più o meno la parabola un po' di questa. Allora, passiamo a quello che ci interessa per lo sviluppo del nostro, discorso. Il concetto che sta alla base della gran parte di queste pratiche, quindi, è un concetto espresso da un nome francese che è difficilmente traducibile, quindi lo lasceremo così, che è il détournement. Détournement. Il verbo da cui deriva in francese è détourner. Tourner significa voltare, girare. Détourner significa girare in una direzione diversa da quella che potrebbe sembrare quella naturale. Il verbo italiano più vicino al verbo détourner potrebbe essere depistare, però nel verbo italiano depistare c'è un atteggiamento, c'è una sfumatura, insomma, anche molto consistente di significato, che è non soltanto negativa, ma che implica una, come dire, una, un progetto che in genere serve per coprire delle malefatte. Si depistano delle indagini in italiano, mentre nel verbo francese non c'è questa idea, cioè è un verbo più neutro da un certo punto di vista, détourner, e quindi il détournement, diciamo, lo lasceremo così. Pensate a qualcosa di intermedio tra il depistaggio e la decontestualizzazione, ma però non c'è una parola né italiana né inglese né tedesca che, non lo so, altre lingue ne sopporti, neanche spagnola. Ho esaurito la lista di lingue in cui posso dire che non c'è una parola come nel francese détournement. E quindi il détournement. Questo termine di détournement compare già nel primo numero della diciamo, rivista che l'internazionalista pubblica, nasce nel 56, cioè ho detto, il bollettino comincia a uscire nel 58, il primo numero, si chiama International Situationist, semplicemente, esattamente come è una rivista, escono uno o due numeri all'anno, più o meno, prima, forse c'è una serie anche di bollettini, ma insomma, questi ce n'è anche, se volete consultarli, c'è un'edizione italiana della Nautilus di Torino, che è una casa editrice, diciamo, libertaria e attenta ai fenomeni della controcultura. Nautilus, una piccola casa editrice, che è un volumone così, tutti sono 12 o 13, credo, i numeri dell'internazionale situazioniste, tutti quanti tradotti anche bene in italiano, quindi potete trovarli. Quindi ci conviene leggere cosa dice il numero 1, giugno 58, dell'internazionale situazionista, per definire il termine détournement. Dice: il termine détournement, si legge, si impiega per abbreviazione della formula détournement di elementi estetici precostituiti. Quindi la definizione che si dà è détournement di elementi estetici precostituiti. Questo vuol dire, ci sono degli elementi estetici, dice lui, quindi elementi relativi a delle pratiche e delle forme artistiche, che sono precostituiti. Questi elementi vengono détourné, vengono presi e utilizzati in una forma diversa da quella per la quale erano stati concepiti. Questa è la frase lapidaria, semplice, quindi détournement di elementi estetici precostituiti. Integrazione di produzioni attuali o passate delle arti in una costruzione superiore dell'ambiente. In questo senso non può esserci pittura o musica situazionista, ma un uso situazionista di questi mezzi. Poi vi leggo l'ultima frase, poi commento. In un senso più primitivo, il détournement all'interno delle antiche sfere culturali è un metodo di propaganda che testimonia l'usura e la perdita di importanza di queste sfere. Quindi affermano i situazionisti, affermano De Bori, insomma, che il détournement era una pratica che era già in uso, non se la sono inventata loro, dice, però in forma più rozza. Semplicemente il détournement era quella che si potrebbe chiamare la propaganda, cioè il presentare degli elementi di tipo argomentativo o di tipo immaginario, eccetera, a sostegno di una tesi precostituita. Lui è implicita in questa prima, poi vi leggerò un altro testo più lungo che vi spiega meglio, però già ora è implicita in questo testo il fatto che invece diciamo, la nuova forma, la proposta situazionista di Truman non possa essere classificata come propaganda, cioè non abbia la vera, come dire, differenza starà in questo fatto, che mentre la propaganda mira semplicemente a convincere delle persone di qualcosa, Il détournement situazionista mira a indurre dei processi nelle altre persone, non a convincere di qualche cosa di, diciamo, stabilito, ma a iniziare in loro un processo nuovo, a fare in modo, in qualche maniera, che il détournement delle situazioni o degli elementi estetici precostituiti che i situazionisti operano abbia come corrispettivo un détournement nella mente dello spettatore o di chi assiste o di chi è coinvolto in queste cose. È interessante nel breve brano che vi ho letto adesso un altro punto, un altro elemento che ha le sue origini nel dibattito marxista sulla, diciamo, cultura, anche di anni molto, insomma, precedenti, e cioè i situazionisti, i quali tra l'altro non si sono mai definiti, cioè i quali, come dire, non volevano essere definiti singolarmente situazionisti, loro sostenevano che il situazionista non esiste, c'è un situazionismo, c'è un internazionale situazionista, ma noi non siamo situazionisti, non si può essere situazionisti. E così dicevano loro, non ci può essere né una pittura né una musica situazionista, né una pittura né una musica situazionista, ma un uso situazionista della musica e della pittura. Al di là, ripeto, dell'incredibile effetto di noia mortale che danno i film di Debord, però essi sono costruiti esattamente così. Cioè, Debord pigliava dei pezzi di vecchi film già dati, li rimontava insieme, insomma, li faceva anche di peggio, ma insomma, diciamo, il suo film più sconosciuto, che si chiama esattamente La Société du Spectacle, è un insieme di spezzoni montati di film di guerra, d'amore, c'è la carica dei 600 di Balaclava, c'è un sacco di cose, e poi c'è una voce fuori campo che legge dei pezzi dello spettacolo. In realtà i film probabilmente più interessanti di Debord sono quello più noto, quello più famoso, che è Hurma en faveur de Sade, Urla a favore di Sade, che sono circa 20 minuti di schermo totalmente nero, voi vi sedete, vedete lo schermo nero, e diciamo, accompagnato da una serie di produzioni verbali, no, sono verbali, sonore, perché diciamo, parole non ce ne sono, che sono le urla del titolo, cioè le urla del titolo, gente che urla, grida, geme, suoni di questo tipo qua, insomma circa un quarto d'ora, 20 minuti credo di questa cosa. Ovviamente il pubblico alla prima di questo film reagì in maniera, come potete immaginare, abbastanza violenta e insomma erano incazzati come delle pisce. Poi ce n'è un altro invece che è In giro mimur noctet consumi murigni, che ma che cazzo dice questo, che è il più lungo palindromo esistente in una lingua. È una frase latina che è stata costruita, però non l'hanno mai scritta in latino, è stata scritta non so quando. Dunque voi sapete che un palindromo è una parola o una frase che si può leggere esattamente in entrambi i sensi, cioè da destra a sinistra o da sinistra a destra. Questa frase latina la scriviamo così perché è divertente. Chi ha fatto latino di voi? Nessuno. Allora, questa frase significa in latino: andiamo imus in giro, in girum, di notte, notte, e et siamo consumati, consumimur, forma passiva del verbo consumere, consumimur igni, dal fuoco. Andiamo in giro di notte e siamo consumati dal fuoco. Se la leggete al contrario, vedete che trovate la stessa frase. In girum imus nocte et consumimur igni. È il palindromo più lungo che si conosca in una lingua anche morta, come il latino, insomma. E questo è il titolo di un altro film di Guy Debord, che non mi ricordo bene come è fatto questo, perché non l'ho visto, comunque insomma non, adesso non è così importante. Andiamo avanti con il Détournement. Volevo dirvi, sì, allora c'era c'è un dibattito, c'era stato un diciamo dibattito già nel movimento operaio internazionale, nel movimento socialista e comunista dopo la morte di Marx, secondo la quale dice, ma che cosa devono fare i socialisti, i rivoluzionari, i comunisti sul piano della cultura? Se ci pensate un po', è analogo al dibattito tra politici e diciamo, hippie che vi ho detto all'inizio, insomma. Si può costruire una cultura diversa da quella dominante nel momento in cui c'è ancora la classe dominante tradizionale al potere, la borghesia? Si può costruire una cultura alternativa, proletaria, all'interno di una società borghese? O i proletari sono condannati in qualche modo a utilizzare in maniera alternativa, diversa, gli stessi elementi della cultura borghese? Bene, la gran parte, allora, mentre c'era anche dentro il partito operaio socialdemocratico russo, poi chiamato partito comunista bolscevico, che è quello che fece la rivoluzione, quello insomma di Lenin, e c'era una componente, ci fu una componente soprattutto rappresentata dal compagno Bogdanov, la quale sosteneva prima e dopo la rivoluzione proletaria, la rivoluzione d'ottobre, che il proletariato aveva la possibilità, anzi aveva il dovere di costruire forme culturali diverse da quelle borghesi, alternative. Ma la gran parte del partito comunista bolscevico invece era di parere contrario, cioè era impossibile costruire una cultura borghese prima di avere costruito la società comunista o protagonista, la società socialista, diciamo, o al limite poi la società senza classi, eccetera, eccetera. Io adesso non prendo posizione perché detto così probabilmente anche il dibattito è male formulato, però in quella frase che abbiamo letto prima c'è l'eco di questi dibattiti. Dice, non ci può essere, dice Debord, né una pittura né una musica situazionista, ma un uso situazionista di queste, e che fa, quindi il Détournement in qualche modo sarebbe uno strumento per poter prendere, per poter utilizzare le cose che la cultura dominante elabora e deturnarle. Io adesso mi sentirete a volte usare questo reno neologismo italiano, ma per non diciamo tradurlo, diciamo, dico, potrebbe coniare il verbo deturnare, che sarebbe il francese détourner. Allora, questa frase che vi ho detto è addirittura nel numero 1 di Internazionale Situazionista del giugno del 58. Nel numero successivo, nel numero 3 del dicembre 59, compare invece un testo più lungo, di cui andiamo a leggere qualche pezzo, e che dice il Détournement come negazione e come preludio. E che dice così. Mi sembra di stare dietro una barricata. Dice il Détournement, ovvero il riutilizzo in una nuova unità di elementi artistici preesistenti, è una tendenza permanente dell'attuale avanguardia, sia precedente alla costituzione dell'internazionale situazionista, sia successiva. Le due leggi fondamentali del Détournement sono la perdita di importanza, che giunge sino alla dispersione del suo significato primo, di ogni elemento autonomo deturnato, e allo stesso tempo l'organizzazione di un altro insieme significante che conferisce ad ogni elemento la sua nuova portata. Quindi c'è una operazione di destrutturazione. Il Détournement toglie l'antico significato agli elementi che, diciamo, sottopone a questa operazione e li organizza, gli dà un altro, diciamo, significato, gli dà un significato diverso. Se ci pensate bene, l'operazione dell'opuscoletto di di Strasburgo del 67 è un'operazione tipica di détournement. Si prende un procedimento diciamo standardizzato, gli studenti hanno il diritto di pubblicare delle cose e i suoi organismi rappresentativi vengono finanziati dall'università. Se voi sottoponete questa procedura a un détournement e quindi diciamo, utilizzate passo passo le stesse procedure che utilizzavano gli organismi rappresentativi precedenti, ma lo fate tenendo nascosto il fatto che state pubblicando un opuscoletto rivoluzionario, come dire, è chiaro che diciamo, il significato di questa operazione cambia, l'operazione perde il suo significato precedente, che è diamo qualcosa agli studenti perché si stiano buoni e non ci rompano i coglioni, e acquista un nuovo significato. Il significato è abbiamo dato con i nostri soldi delle istituzioni un nuovo strumento agli studenti per romperci i coglioni, anche se non lo sapevamo, punto. Questo è il nuovo significato. Quindi è una classica operazione di détournement. Vi è una forza specifica nel détournement che attiene evidentemente all'arricchimento della maggior parte dei termini attraverso la coesistenza in essi del loro significato antico e immediato, il loro doppio fondo. Vi è una utilità pratica attraverso la semplicità d'uso e le inestinguibili virtualità di riutilizzo. A proposito del minimo sforzo permesso dal détournement, abbiamo già scritto, in uno scritto precedente, addirittura del 56, questa frase: il basso costo dei suoi prodotti è l'artiglieria pesante con la quale si battono in breccia tutte le muraglie cinesi dell'intelligenza. Wow! Tuttavia questi punti in sé non giustificano il ricorso al procedimento che la frase precedente mostrava scontrarsi con tutte le convenzioni mondane e giuridiche. C'è un senso storico del détournement. Qual è questo senso storico? Asgeir Jorn, nel suo studio Peinture détournée del maggio 59, pittura detournata, scrive: il détournement è un gioco dovuto alla capacità di devalorizzazione, togliere il valore, e aggiunge che tutti gli elementi del passato culturale devono essere reinvestiti o scomparire. Il détournement si rivela così innanzitutto come la negazione del valore dell'organizzazione precedente dell'espressione. Io tolgo valore a quello che c'era prima utilizzando le stesse cose. Nasce e si rafforza sempre più nel periodo storico del deperimento dell'espressione artistica. Il periodo storico che si era evidentemente aperto con le avanguardie storiche, quelle di all'epoca di Debord, di 50 anni prima o 60 anni prima. Ma contemporaneamente i tentativi di riutilizzo del blocco deturnabile come materiale per un altro insieme esprimono la ricerca di una costruzione più vasta ad un livello di riferimento superiore, come una nuova unità monetaria della creazione. L'internazionale situazionista è un movimento molto particolare, di carattere differente dalle avanguardie artistiche precedenti, anche da quelle da cui deriva, aggiungo io. Se però mi perdo la pagina. L'internazionale situazionista, ad esempio, può essere paragonata nella cultura a un laboratorio di ricerche e anche ad un partito in cui noi siamo situazionisti e in cui niente di ciò che facciamo è situazionista. Per questo, poi si piglia in giro da solo. Questa non è una sconfessione per nessuno. Noi siamo sostenitori di un certo avvenire della cultura, della vita. L'attività situazionista è un mestiere definito che non esercitiamo ancora. Così la firma del movimento, la traccia della sua presenza e della sua contestazione nella realtà culturale di oggi, poiché non possiamo in alcun caso rappresentare uno stile comune, quale che esso sia, è innanzitutto l'utilizzo del détournement. Si possono citare nella fase dell'espressione sottoposta a détournement le pitture modificate di Jorn, il libro interamente composto di elementi prefabbricati di Debord e Jorn Memoir, ricordi, nel quale ogni pagina si legge in tutti i sensi e dove i rapporti reciproci delle frasi sono sempre incompiuti, un tentativo di una specie di poesia visiva o di libro componibile, i progetti di Constance per delle sculture de Tournai, nel cinema il documentario de Tournai di Debord sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, che è un altro di quelli famosi, sul passaggio di alcuni attraverso una unità di tempo molto breve. Nella fase di quello che è il mode d'emploi di Tournai, cioè il primo testo del 56 su de Tournai, chiamava l'ultra de Tournai, ossia le tendenze de Tournai a venire applicato nella vita sociale e quotidiana, ad esempio le parole d'ordine o il travestimento appartenente alla sfera del gioco, vedete che già cominciamo qua a avvicinarci. Bisognerebbe parlare a livelli differenti della pittura industriale di Gallizio, poi vi spiegherò cos'è, del progetto orchestrale di Wickart per una pittura a catena con divisione del lavoro sulla base del colore, dei molteplici detournements di edifici che saranno all'origine dell'urbanismo unitario. L'urbanismo unitario è una delle parole d'ordine dell'internazionale situazionista. Ma accanto a ciò occorrerebbe anche citare le forme stesse dell'organizzazione dell'internazionale situazionista e della sua propaganda. Quest'ultima frase è molto interessante perché ci fa vedere che l'internazionale situazionista non era in realtà un movimento classicamente marxista. Perché? Perché pensava che la sua stessa forma di organizzazione e i modi che impiegavano fossero delle forme di, diciamo, deturmante, cioè fossero degli elementi già nel modo in cui ci si organizzava, fossero degli elementi di una nuova organizzazione culturale. Tradizionalmente le strutture del movimento operaio erano ricalcate su quelle della società borghese, sezioni territoriali, organi dirigenti, assemblee, gente diretta, tutta questa organizzazione tradizionale, borghese, questa divisione del lavoro, doveva servire nelle teste dei dirigenti rivoluzionari per costruire una società in cui tutto ciò sarebbe stato abolito, quindi anche quelle forme organizzative dei partiti comunisti. Ma per il momento ci teniamo quelle e utilizziamo quelle per la cosa. Bene, i situazionisti dicono no, noi utilizziamo il détournement, quindi utilizziamo la tattica di stravolgimento. Ecco, stravolgimento potrebbe essere un altro dei termini che potrebbero vagamente servire per tradurre l'étournement. Noi utilizziamo lo stravolgimento anche all'interno della nostra stessa organizzazione. Quanto poi questo fosse, diciamo, reale è un altro discorso. In realtà sappiamo bene che come dire, Debord usava le stesse tecniche di espulsione dei sentienti che usavano i partiti borghesi o peggio ancora i partiti comunisti, cosiddetti comunisti staliniani. Ma insomma, a questo punto del cammino del mondo tutte le forme dell'espressione cominciano a girare a vuoto e costituiscono la loro stessa parodia. Come i lettori di questa rivista possono constatare frequentemente, la scrittura odierna ha sempre qualcosa di parodistico, fa sempre la parodia di qualche cos'altro. Bisogna concepire, annunciava l'opuscolo del 56, una fase parodistica seria in cui l'accumulazione di elementi de Tournai, lungi dal voler suscitare l'indignazione o il riso, facendo riferimento alla nozione di un'opera originale, ma marcando al contrario la nostra indifferenza per un originale svuotato di significato e dimenticato, tutto ciò sarebbe rivolto a rendere un certo sublime. Qui Debord utilizza uno degli elementi dell'estetica kantiana di Kant, cioè l'attrazione verso il sublime, cioè verso i fenomeni che ci appaiono come smisurati rispetto alla nostra esperienza quotidiana, per parlare di questo detto umano. Cioè, quindi il detto umano non va, cioè, la parodia dice, non va presa nel senso che facciamo ridere o facciamo indignare la gente, dice, ah, guarda, questo ha fatto la parodia. Io adesso, si è svolto per esempio recentemente un concorso a Roma organizzato da Mauro Folci, che è un vostro professore, un collega, in cui il governo era la limitazione dello stile oratorio di Papa Ratzinger, facendo leggere a degli attori, insomma, leggevano un testo di Beckett, in realtà un piccolo testo di Beckett, però lo leggevano tradotto in latino e con, diciamo, l'accento, diciamo, tedesco di Papa Ratzinger. Io facevo parte della giuria, quindi non è che certe cose, come dire, memorabili. Comunque l'idea era, diciamo, buona. Però in questo caso, questa è ancora una parodia classica, più o meno. Noi sappiamo che c'è un originale, che è Papa Ratzinger. Invece il modo in cui propone, il modo in cui, diciamo, il modo in cui Debord propone di utilizzare questa cosa, dice, non è quello di fare riferimento a un originale che sarebbe quello autentico e le nostre sono solo parodie, quindi fanno ridere, ma al contrario, la nostra indifferenza per un originale svuotato di significato e dimenticato. E perché dice, e perché suggerisce Debord, che chiaramente sarà lui che avrà scritto questo testo, che questo ha a che fare con il, diciamo, sublime? Perché quando voi avete dimenticato l'originale, o non ve ne frega più niente dell'originale, non c'è più, quindi non ci sono più delle copie che a mano copiano l'originale, ma si direbbe con un altro termine dei simulacri, cioè delle specie di modelli che... No, questo procedimento funziona soltanto nelle prime, cioè nel passaggio di valorizzazione. No, dopo un po' ci si abitua al meccanismo. Dopo un po' ci abitui al meccanismo, però se tu non hai un originale che dici, ma tanto questo... Che cosa succede? Succede che tu puoi accumularne quanti, quindi hai un accumulo di, come dire, materiali relativi tutti ad un originale inesistente o poco interessante, ed è questo che dà l'effetto del sublime, cioè, perché tu puoi fare 10.000, 50.000, nel concorso di Folci c'erano solo 7-8, cioè, concorrenti, ma se fossero arrivati 100 concorrenti, 200 concorrenti, dopo un po' perdevi la cosa, e quindi era semplicemente l'effetto in qualche maniera di ripetizione o di variazione su una certa cosa. Ecco perché questo è molto interessante che nel 59 si scrivano delle robe di questo tipo, perché noi oggi siamo con il digitale, siamo abituati alla inesistenza di un originale, come dire, materiale, e alla proliferazione non più di copie, ma di varianti che hanno tutte la stessa dignità e lo stesso livello ontologico. Non è più come quando copiavate un nastro magnetico analogico e a ogni scopiatura la qualità diminuiva perché era una copia. Le copie digitali non sono copie nel senso tradizionale, sono varianti, perché c'è lo stesso modello matematico che produce di volta in volta una serie di effetti visivi o di parole, di immagini, eccetera. Ora, tutto questo, diceva Debord, è in qualche maniera connesso con il sublime. In qualche maniera, quindi, anche il détournement è una sorta di operazione che va verso... E infatti, conclude questo pezzettino con questa nuova categoria del parodistico trattino serio. Il parodistico serio copre le contraddizioni dell'epoca in cui ci troviamo, altrettanto insistenti, l'obbligo e la quasi impossibilità di realizzare, di portare avanti un'azione collettiva totalmente innovatrice, dove il massimo della serietà avanza mascherato nel doppio gioco dell'arte e della sua negazione, dove gli essenziali viaggi di scoperta sono stati intrapresi da persone di una davvero commovente incapacità. Allora, la struttura, diciamo, la contemporaneità secondo i sezionisti porta con sé qualcosa di inevitabilmente parodistico, ma è una parodia che non ha più a che fare con l'esistenza di un originale, diciamo, perduto, o comunque con un originale che funzioni da elemento di validazione, che rende valido questa cosa. È valida perché c'è l'originale, perché quando voi fate la copia di un quadro, in qualche maniera rendete un omaggio all'originale di quel quadro. Il vostro quadro è tanto migliore quanto più è fedele a quel che è, ma non può mai pretendere di sostituirsi all'originale. La nostra situazione, adesso torniamo su questo, perché per realtà c'è un modo per, c'è un détournement anche della copia tradizionale analogica, ma il détournement nell'epoca, già nell'epoca di Debord e più ancora nella nostra, non può essere un détournement del genere. Il nostro intento non può essere puramente parodistico, perché nel mondo del, come dire, digitale noi abbiamo perso questa, non ci sono più gli archetipi. Qualcuno vorrebbe convincersi che che i programmi del computer o le configurazioni numeriche hanno la stessa funzione delle idee di Platone e quindi sono degli archetipi in qualche modo, ma ovviamente è una truffa, perché non sono degli archetipi, diciamo, di nulla, sono semplicemente l'indicazione operativa di un percorso, di un metodo. Applicando quelle regole, facendo girare quelle righe di codice sul vostro computer, voi creerete di volta in volta una serie di oggetti tutti quanti uguali, tendenzialmente in numero infinito, che hanno tutti la stessa dignità di originale rispetto agli altri, che non sono copie. Quindi, diciamo, la parodia tradizionale si va sempre più perdendo nella nostra società. Però facciamo un passo indietro. Voi sapete bene, spero che vi sia venuto in mente mentre io stavo parlando del pittore tradizionale che fa la copia della Venere di Botticelli e la copia del pittore sconosciuto, è un omaggio a Botticelli, perché lui, e paradossalmente questo omaggio è tanto maggiore quanto più la copia si avvicina all'originale, capite? Ma in realtà voi sapete benissimo che c'è un meccanismo, e c'è sempre stato un meccanismo di détournement anche di questo tipo di operazione. In che cosa consiste questo? Interpretazione. No, nel tentativo di far passare la tua copia per l'originale. L'industria del falso. L'industria del falso. Allora voi capite, ecco, d'altra parte non c'era il termine falso nella prima lista di pratiche détournement, di pratiche che sovvertono, c'è il falso, il falso è sempre stato una, come dire, di possibilità, e tutta una parte della produzione artistica del passato è stata ed è costituita di falsi, fino al caso, voi sapete, sono alcuni casi eclatanti di pittori che hanno dipinto i falsi di se stessi. Il più famoso è De Chirico, che ha ridipinto non come variante, ma esattamente al puro scopo mercantile di rivenderlo la seconda volta, la terza volta per lo stesso prezzo, perché qua ovviamente truffando il povero acquirente, questo è ovvio, ma facendolo e creando una situazione di difficilissima, diciamo, risoluzione sul piano giuridico, ma anche sul piano concettuale. Possiamo davvero definire le due, tre, quattro piazze ferraresi con Manichino che De Chirico dipinse con lo stesso titolo in anni differenti e che sono come dei falsi? Li ha fatti De Chirico, era era la sua mano quella che tracciava il pennello, ovviamente lo faceva guardando il quadro precedente o una sua riproduzione, facendolo il più fedele possibile. Ma sapete benissimo che ci sono artisti che hanno campato, sono vissuti esattamente producendo falsi, producendo e vendendo falsi. Quindi l'industria del falso, c'è già questa, perché il falso tradizionale non è un détournement in senso situazionista? Perché in realtà vive o sopravvive nelle pieghe del sistema dell'arte, ma non lo mette in discussione. Il détournement del falsario che fa un falso anche di un pittore del passato, eccetera, eccetera, e lo fa semplicemente per venderlo e per, come dire, profitta in modo diverso, ma dello stesso sistema che approfittano. Diverso sarebbe il caso se uno facesse un falso questo falso fosse, come dire, battuto ad un'asta di Christie's, ovvero, e poi l'autore del falso dicesse no, guardate, questo è un falso, la rivendicazione del falso. Vedremo nelle prossime lezioni che questo in effetti è la tattica fondamentale, è il modello prevalente del subvertising o del fake contemporaneo. Il fake contemporaneo, il détournement contemporaneo nella forma del fake, operato da alcuni artisti contemporanei, per esempio di 01 nella loro prima fase, o anche altri, o anche Uber Morgan, o anche gran parte della net art contemporanea ha utilizzato il falso, ma il falso presuppone, il capostipite di questa cosa che è Luther Blissett. Il falso in questo senso è un détournement, cioè è un falso che richiede la sua rivendicazione, richiede di essere rivendicato. Se voi non, il falso viene fatto apposta per trarre in inganno all'inizio il destinatario, ma poi nel rivelare. E perché viene fatto? Perché ha come scopo non quello, come dire, parodistico, ma quello parodistico serio, cioè ha lo scopo di mostrare l'inconsistenza o la debolezza del sistema che attacca. Se ci pensate bene, la logica è simile a quella, degli hacker, non degli hacker intesi in senso, piratistico, ma degli hacker intesi in senso, l'hacker l'hacker virgolette positivo, l'hacker storicamente chi è? È una persona che vuole détourner, che vuole volgere ad un altro scopo, tecnologie già esistenti, ma che vuole usare in modo diverso. Per fare questo deve smontare la scatola, mostrare come funziona quella cosa dentro, rimontarla cambiando qualche piccola cosa, détourner qualche cosa, in modo che questo abbia degli altri effetti. Questo è esattamente è un modo di fare analogo, quindi, a quello di chi opera un détournement sociale, per esempio tramite un falso. Facciamo un esempio, tanto per non una delle prime cose che fece il gruppo di Luther Blissett a Bologna, poi ve ne parlerò meglio le volte prossime, quando nacque alla metà degli anni 90, insomma tra il 93 e il 94, una delle cose per Luther Blissett, si chiamava collettivo Luther Blissett, era un nome collettivo, Luther Blissett, è il capostipite dei nomi collettivi italiani, perché poi ce ne erano stati alcuni prima, nell'ambito, e sta più o meno dentro questa linea, anche se uno dei principali esponenti dell'Utter Blissett bolognese e oggi dei Wuming, dichiara la propria estraneità al situazionismo e anzi accusa Guy Debord di essere noioso, fa questo gioco di parole tra inglese e francese, Guy Debord, il noioso, però di fatto questo è Allora, una delle prime cose che avete fatto fu quella di mandare una serie di lettere al resto del Carlino e ad altri giornali locali, come dire, bolognesi, denunciando la comparsa presso in alcuni giardini pubblici di misteriosi pacchi contenenti delle teste di animali mozzate, forse anche arti umani, cose di questo tipo, eccetera, eccetera. Il resto del Carlino montò la campagna mostrando delle foto, il lettore non saprà bene se fossero foto mandate dagli altri lettori, mandate da questo anonimo lettore che ha progettato, che era Luther Blissett, che erano i Luther Blissett, o se fossero state fatte dal giornale. Ma dopo pochi giorni, quando questa campagna cominciava a montare, Luther Blissett, il curativo, intervenne e con un comunicato firmato Luther Blissett disse: no, queste robe nei giardini non ci sono mai state, queste sono foto false fatte da noi, eccetera, eccetera. A che scopo era stata fatta questa cosa? Era stata fatta allo scopo di mostrare due cose. Primo, che il meccanismo dell'isteria è diciamo connaturato con il sistema dei mass media, e che i mass media, o alcuni mass media in genere, hanno come unico scopo quello di fare montare l'isteria della gente, quello di preoccupare sempre di più la gente, di fare vedere cose paurose, eccetera. Secondo, che questo meccanismo è facilissimamente aggirabile. Perché? Perché i giornalisti sono cialtroni e non vanno a verificare le notizie. Ti scrivono una cosa, tu vai lì, dici: guarda, ai giardini Margherita c'è una testa di maiale mozzata, vai a vedere, se c'è scrivi che c'è, se no dici: mi hanno detto che c'era ma non l'ho mai vista. Invece tu pari ti dicono una cosa, e siccome questa cosa collima con il clima che tu stesso hai creato, con Bologna piena di gentaglia, piena di giovani studenti, mascalzoni, satanisti, consumatori di cannabis di sesso anale, per dire, dice qui, e pubblica, perché questa cosa corrisponde con il tuo modello. Quindi tu, questa è era una bella embrionale ma buona operazione di détournement, cioè in cui tu fai finta di, diciamo, accettare il sistema di valori del tuo interlocutore, quindi di questo giornale in modo particolare, ti inserisci dentro con qualcosa che è plausibile, perché è simile a tante altre piccole o grandi campagne che questo giornale ha fatto contro la cosa, e poi dimostri che era un falso. Tu hai detto che era un falso, non l'hai fatto a puro scopo di burla, ma o anche perché ti sei certamente, come dire, divertito, ma hai fatto vedere che tutto questo sistema è basato su alcuni presupposti impliciti e, diciamo, reali, ma non esplicitati, e quindi spesso non consapevoli. Cioè, la gente non è consapevole spesso che le cose funzionano così, non è consapevole perché è parte del gioco lei stessa. Se tu glielo mostri, li metti come davanti a uno specchio, e quindi riesci a fargli. Quindi non... Abbiamo capito molte cose dei Luther Blissett di quel periodo e degli 01 di pochi anni dopo, cioè del 99, 98, no, no, no, 99, 2000, hanno questa, diciamo, caratteristica. Quindi sono dei falsi, delle burle messe in opera, messe in azione per fare risaltare alcune caratteristiche normalmente invisibili o del sistema dei media o del sistema dell'arte, di uno o dell'altro dei gangli del sistema culturale, insomma, della cosa. Blissett. Vi racconterò la storia la volta prossima. Luther, come Lutero, in inglese Blissett con due T finali, due S e due T. Allora, oggi volevo far vedere il sito di Luther Blissett, ma insomma ve lo farò vedere la volta prossima. Allora, abbiamo deciso quante lezioni facciamo, no? Sì. Allora, vi ho chiesto l'altra volta la disponibilità a fare delle lezioni all'inizio della sessione di esame, cioè quando formalmente sarebbero, che sono la fatta. Allora, oggi è il abbiamo detto mercoledì prossimo siamo forse tutti il 27 è un condizione normale, che credo è normale ancora fino al 3 febbraio. Bene, proponevo almeno una mercoledì 10, se la facciamo, o fare forse mercoledì 10 ce ne vorrebbe un'altra, dobbiamo fare il 2. Dopo quella di mercoledì 2, una la facciamo mercoledì 10 e l'altra non so, dite voi se preferite, io sono in pausa anche in ABA, quindi va bene anche martedì, andrebbe bene per me anche il 9, o il lunedì 8, come abbiamo detto. Mercoledì 8. Allora fissiamo lunedì 8, posso fissarla? Allora per la mattina? Facciamo sempre il mattino, dai, almeno poi lo scoprire così. Allora lunedì 8 la mattina alle 10. Allora io lo dico in segreteria, ma nel senso che è un accordo tra me e voi, insomma, anche se le persone sono potere. Tanto io le firme, le conseguenze me le devo dare già la prossima, quindi anche quello del 3 sarebbe da fuori, cioè è una pazzia questa di guardare le cose prima di una dite che è una buffonata e non facciamo vedere se è frequente. Allora facciamo comunicazione lunedì 8 e mercoledì 10, ok, alle ore 13, quindi abbiamo ancora quindi 4 le mercoledì 10 alle ore 13. Mercoledì 10 alle 10. No, 13 è un numero. Allora, insomma, mercoledì prossimo, mercoledì dopo che è il 3 febbraio e poi la settimana dopo, invece facciamo lunedì e mercoledì. Il 10 vediamo. Così almeno sappiamo che. Poi chi vuole fare l'esame in questa sessione lo può fare. Allora, scusate, per la data dell'esame, oltre a te c'è qualcun altro che è interessato a farlo adesso? No. No, allora sarà quegli altri. Quindi ti sei, diciamo che... Ok, allora quella data lì purtroppo non va bene, l'ho dovuta cambiare oggi perché ho gli esami in ABA quel giorno. Allora sono spostati perché anche tu sei anche lo comunque, a te però ti può stare pure fuori anche senza l'esame. Li faccio il 23, sì, il 23. Il 23 febbraio alle ore 10. Perché il 18, cioè, quindi quella data lì, lo so, adesso non credo che la possano cambiare, ma... Allora, se volete farlo, il professore lo scritto me lo dovete mandare, diciamo, realisticamente, le 6 giorni prima, no? 7, 6, sono tra parte, insomma, io dico 10 per fare l'educazione psicologica, c'è il pari davvero, poi 7 giorni. Comunque io non è che vi consiglio di darlo adesso, dico, se però uno volesse farlo, tipo sul diverso, se lo può fare bene, però insomma di norma mi piacerebbe di più però insomma ti voglio fare. No, infatti, ma comunque siccome avete il diritto di farlo, io non posso impedirvi di farlo, né posso scoraggiarvi in modo troppo, diciamo, esplicito. Dico solo che quello sarebbe meglio che ti riflettete un pochino, però se per una serie di vostri motivi lo volete chiamare. Va bene, ci vediamo per il prossimo. C'è qualcuno che ha rischio frequenze e deve fare delle informazioni particolari? Perché c'erano studi, ci sono dei problemi, così loro non hanno ancora scelto il professore. Sì, ma tu sei sicuro di dare venendo in mente, cioè sto costruendo, riordinando un po' le idee in funzione della tesi appunto questo metodo di Tournemont, che in realtà non conoscevo, che però è un po' quello che si vede anche con l'informazione soprattutto. Invece, cioè, invece di avere un effetto reale di denuncia, abbia soprattutto anzi l'effetto contrario di spegnere l'interesse sulla verità, cioè sulla ricerca di informazione verità, ma beh, è una cosa che ci sto riflettendo. Parleremo anche di questo. Mi piacerebbe, cioè è una cosa che mi piacerebbe. Io avrei già capito che io dubito molto che ci sia qualcosa che si può chiamare informazione.